Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto di Radio Banconsiglio, Ave Maria a tutti, ben ritrovati sulla frequenza della nostra carissima web radio. Chi vi parla come sempre è Leonardo Maria Pompei. Ci accingiamo a una nuova puntata del nuovo ciclo di incontri, diciamo così, di colloqui, di conversazioni, chiamateli come preferite, sui sette sacramenti. E la volta scorsa ci siamo occupati, se ricordate, e dei primi interventi, diciamo così, di Santa Madre Chiesa per quanto riguarda la necessità del sacramento del battesimo da impartire ai bambini. Quindi abbiamo visto i due interventi di due grandi, del grande pontefice Innocenzo III, soprattutto, ve lo ricorderete, quello avvenuto in contemporaneo di San Francesco, il Medioevo, e poi l'intervento, scusate, prima di lui, Papa Siricio nel 385 dopo Cristo, che fu il primo, diciamo, intervento ufficiale della Chiesa in ordine alla tematica dei sacramenti, no? E oggi bisognerebbe, prima, diciamo così, di tornare ad approfondire ulteriormente, diciamo, il sacramento del battesimo e fare un passaggio preventivo sul numero dei sacramenti e su quello che hanno detto in merito al numero 7, al cosiddetto sacro settenario dei sacramenti, il Concilio di Firenze e il Concilio di Trento. Il Concilio di Firenze che è avvenuto negli anni dal 1438 al 1445, mentre il Concilio di Trento, che è il più importante in assoluto per quello che riguarda i sacramenti, è avvenuto tra il 1545 e il 1563. E questo perché, tra le varie questioni variamente poste nel corso della storia, ci furono alcune tematiche proprio riguardanti la non ammissione del numero 7. Ecco, mentre, diciamo, il Concilio di Firenze, non essendo ancora nate le controversie luterane, diciamo che dà abbastanza per pacifico questo numero e si limita semplicemente ad enumerarli e a fare qualche piccolo distinguo, invece poi, come vedremo oggi subito, il Concilio di Trento risolutamente condanna una serie di eresie perniciose formulate in sede di critiche, diciamo così, provenienti dall'ambito protestante, quindi sia da Lutero, sia da Melantone, sia da Calvino, da Wycliffe, sotto vari punti di vista. Insomma, Wycliffe veramente era un pochino prima, ecco, era circa 150 anni prima, che però in vario modo avevano, come dire, alterato la sana dottrina cattolica sui sacramenti. Allora, vorrei partire prima dal Concilio di Firenze rapidamente, per poi cercare di occuparci in maniera possibilmente esaustiva del Concilio di Trento, dell'importantissimo decreto sui sacramenti che apre, diciamo, tutta quanta la parte dogmatica del Concilio Tridentino su tutti e sette i sacramenti, che chiaramente ci guiderà a lungo durante il nostro excursus e itinerario. Allora, per quello che concerne il Concilio di Firenze, cito adesso testualmente. Ovviamente queste cose si trovano nel Denzinger, quindi 1310 è il numero interessato, e afferma testualmente: i sacramenti della nuova legge sono sette: battesimo, confermazione, eucaristia, penitenza, estremunzione, ordine e matrimonio. Essi sono molto differenti dai sacramenti della legge antica. Vi ricordate la volta scorsa e opportunamente un intervento magisteriale aveva posto in relazione il battesimo con la circoncisione. Ecco, nell'antica alleanza c'erano anche dei sacrifici, no? C'era anche la Pasqua ebraica, che ovviamente è un segno prefigurativo della Pasqua cristiana. Ecco, ma qui spiega subito che quelli, riprendo la citazione testuale, non producevano la grazia, attenzione, Attenzione a questi termini, ma indicavano solo che questa sarebbe stata data per la passione di Cristo. Cioè, i sacramenti dell'antica alleanza, quindi la circoncisione, la Pasqua ebraica e tutti quanti i riti di cui conosce un pochettino la Sacra Scrittura è a conoscenza, descritti diciamo molto dettagliatamente nel libro del Levitico, ma anche negli altri libri del Pentateuco, nell'Esodo per esempio e nel Deuteronomio, e la lettera agli ebrei li definisce ombra delle realtà future, cioè prefigurazioni che in qualche modo, e qui i padri della Chiesa, bisogna chiaramente, non c'è tempo di approfondire queste tematiche in questa sede, si sono veramente... se mi si passi questo termine, sbizzarriti nell'andare proprio a vedere tutti quanti i singoli rituali, come in qualche modo avevano relazione con la passione di Cristo, con la Pasqua e come la prefiguravano. In ogni caso non producevano la grazia, quindi non comunicavano la grazia, d'accordo, ma la significavano, d'accordo, rimandando misteriosamente, chiaramente gli ebrei non erano consapevoli di questo, e quelli che non riconoscono Gesù come il Messia ovviamente non ne sono consapevoli nemmeno oggi, che sono passati 2000 anni da questi fatti, a quello che sarebbe successo con Cristo e la sua passione. I nostri invece, riprende il Concilio di Firenze, contengono in sé la grazia, attenzione, e la comunicano a chi li riceve degnamente. Poi torneremo su questa espressione prima di chiudere. Di essi, i primi cinque sono ordinati alla perfezione individuale di ciascuno, cioè, riprende i primi cinque, battesimo, confermazione, eucaristia, penitenza e estrema unzione. Questi servono alla santificazione propria della persona. Gli ultimi due, invece, al governo e alla moltiplicazione di tutta la Chiesa. L'ordine, coloro che ricevono il sacramento dell'ordine sono chiamati a rappresentare Cristo capo e pastore, ciascuno nel proprio grado, e quindi governano la Chiesa di Cristo, e alla moltiplicazione di tutta la Chiesa, perché udite udite, quando ancora c'era un pochino di senno dentro il cuore delle persone, il matrimonio serve principalmente a fare i figli nell'attuale economia, ecco, e quindi facendo figli di Dio, tu fai un figlio, lo porti al sacerdote, non quando prende moglie, come abbiamo visto la volta scorsa, ma subito, diventa subito figlio di Dio e quindi si moltiplicano i figli della Chiesa. Quindi ecco perché lo chiama la moltiplicazione di tutta la Chiesa, no? Quindi in questa asciutta e breve formulazione, perché ripeto, e questa era un pochettino una sorta di introduzione a poi le varie definizioni, molto molto succinte, come vedremo, brevi, sui sette sacramenti dati dal Concilio di Firenze, brevi perché c'erano state soltanto alcune sciocchezze variamente vagheggiate da vari gruppi ereticali di quel periodo del tardo medioevo, no? Albigesi, Catari, contro cui già si era espresso il Concilio Lateranense IV, ecco, per esempio Wycliffe, contro cui già però si era espresso il Concilio di Costanza nel 1414-18, eccetera, eccetera, no? E, però in questa asciutta formulazione già dà due indicazioni assolutamente normative e fondamentali, cioè numero uno il numero, sette sacramenti, ma numero due l'importanza straordinaria ed unica dei sacramenti della Nuova Alleanza, perché contengono in sé la grazia, quindi non sono mere cerimonie, non sono meri riti, non sono memorie di cose avvenute nel passato e non sono neanche gesti folcloristici, capite, più o meno caratteristici, in qualche modo rievocativi o evocativi della divinità o di un certo culto da dare ad essa, assolutamente no, sono dei veri e propri strumenti di comunicazione della grazia che contengono, quindi non solo significano una grazia particolare, ma la contengono e la comunicano, attenzione, ecco, quindi i sacramenti la contengono sempre, ma chi è che la riceve? Chi li riceve degnamente? E questo lo vedremo parlando poi dei singoli sacramenti. sia della confessione, sia dell'Eucaristia, sia della confermazione, sia dell'estrema unzione, sia dell'ordine che del matrimonio. Ecco, capite? Perché, cominciamo, questo l'ho già focalizzato nel primo incontro, ma non è mai troppo ben ribadito, ricordiamo sempre che i sacramenti sono realtà oggettivamente santificanti. Ma perché questa oggettività della loro potenza santificatrice funzioni, occorre che trovino in noi le disposizioni adeguate. Perché facendo un esempio, i primi esempi, ecco, non si può battezzare per esempio una persona adulta contro la propria volontà, perché per quanto il sacramento del battesimo sia dato a un bambino che non ha volontà propria, però il bambino deve avere un padrino che la manifesti, ci deve essere il consenso dei genitori. Io recentemente mi sono trovato a come dire, a correggere qualcuno, perché sapete che per battezzare un bambino non ci vuole chissà più chissà che cosa, ci vuole un padrino o una madrina che rinunci a Satana e professi la fede per lui, basta, non serve altro, ma ci vuole anche che i genitori siano consenzienti. E il consenso dei genitori è tassativo per il sacramento del battesimo, e non si può per nessun motivo amministrare un sacramento del battesimo a genitori di cui anche uno solo dei due sia dissenziente. Si può anche amministrare il battesimo, per fare un esempio, a due shintoisti o a due musulmani, cioè se due shintoisti e due musulmani chiedono di far battezzare il figlio e hanno, basta che trovano un padrino o una madrina cattolica e praticante, il bimbo può essere battezzato. Ma io non posso prendere il figlio di una persona che non crede e battezzarlo contro la sua volontà, non si può. È una gravissima violazione, tra l'altro passibile di denuncia penale, e denuncia penale non del tutto infondata, tra l'altro. Quindi, perché i genitori hanno la potestà sul figlio, capite? Nessun sacramento, non si può dare neanche la comunione. Per esempio, succedono oggi purtroppo questi brutti casi: genitori che divorziano, uno dei due si impazzisce. Io so per certo che sono successi casi in cui un genitore si oppone a far fare la comunione al figlio, e se lo sciagurato parroco, magari anche con le buone disposizioni, gliela dà lo stesso, passa i guai civili e canonici anche, perché non si può. Capiscano così i genitori quanto è grande l'autorità e il potere che Dio ha dato loro. Facciamo una piccola pausa, che sono le 17, salutando, come di consueto, la Madonna. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, carissimi, quindi questo primo indicazione è fondamentale. I sacramenti sono sette, contengono la grazia, la comunicano a chi è debitamente disposto e li riceve degnamente, e infine cinque di essi sono stati istituiti per la santificazione e il perfezionamento proprio personale, cioè servono a santificare la persona. Due di essi sono funzionali alla vita della Chiesa, al suo governo e alla sua moltiplicazione, ordine e matrimonio. Il Concilio di Trento chiaramente si trova in un contesto storico molto diverso, perché voi sapete che Lutero e Melantone, e poi dopo di lui Giovanni Calvino, hanno sferrato un attacco poderoso e frontale al cuore della Chiesa Cattolica. Un attacco, peraltro, che a quei tempi, sia pur, diciamo anche la verità, con estremo ritardo, ecco, estremo ritardo. Perché prima che fu fatto il Concilio di Trento, questi avevano già fatto il bello e il cattivo tempo. Pensate che le famose 95 tesi furono affisse da Lutero alla cattedrale di Wittenberg nel 1517, e il Concilio di Trento si è aperto nel 1545, quasi 30 anni dopo, con ritardo. Nel frattempo questi avevano fatto una devastazione in tutta Europa, quindi vabbè, diciamole tutte, però, ecco. Però la dottrina che avevano formulato è che allora fu, in qualche modo aveva cominciato a sfondare le porte della Santa Chiesa Cattolica, ma fu poi respinta. Solo uscita dalla porta, ultimamente rientrata dalla finestra, perché sapete che ci sono degli autori, e non gli ultimi sprovveduti, che hanno scritto, e non poco, e non senza qualche ragione, a mio modestissimo avviso, sulla cosiddetta protestantizzazione della Chiesa Cattolica. Quindi cioè idee e posizioni un tempo care ai riformati, in nome anche di una sorta di malinteso dialogo ecumenico, che quasi significherebbe accogliere ex post delle dottrine che in quanto tali sono inaccettabili, adesso quindi a prescindere poi dalla carità dovuta verso le singole persone, dal rispetto dovuto a chi comunque ha un credo diverso dal nostro. La fede si propone, non si impone a nessuno, ma tu non puoi transigere su una dottrina erronea. Questo la Chiesa non l'ha mai fatto nel corso della storia. Puoi abbassare i toni, anziché scrivere, anziché dire anatema sit, se preferisci, anche questo secondo me è una cosa che ha dei pro e ha dei contro. Cioè, puoi, come dire, guarda fratello mio, ti stai sbagliando senza bisogno di scomunicare le proposizioni. Ripeto, questo è una concessione alla carità, ma che rischia di essere fatta a scapito della verità in alcune circostanze. Comunque, non entriamo nel merito, però, per esempio, travisava nel senso della presenza di Gesù nell'Eucaristia, negava il valore realmente sacrificale della Santa Messa. Secondo Lutero la messa non era un sacrificio, ma se voi andate a parlare adesso in giro con la gente, quasi nessuno vi dirà, e provate a fare una prova, che la Santa Messa è la rinnovazione sacramentale del sacrificio della croce. Ecco, quindi, perché oggi si insiste molto su altre dimensioni, e si vede insomma anche da come si sta riducendo la messa in tanti posti, no? E soprattutto negò che i sacramenti erano sette, perché secondo Lutero i sacramenti realmente istituiti da Gesù sarebbero due: il battesimo e l'Eucaristia. Tra l'altro, però, Lutero, avendo rotto il legame con la successione apostolica, perché negò sacramentarietà al sacramento dell'ordine, e quindi i loro ministri, chiamiamoli così, non sono realmente ordinati, quindi non hanno il potere di consacrare, quindi loro sì, quando celebrano la cena del Signore, non compiono un vero sacramento, perché il ministro non ha il potere di compierlo, quindi la loro Eucaristia, tra virgolette, non è altro che un ricordo dell'ultima cena, quindi non è un vero sacramento, d'accordo? Perché mentre il sacramento del battesimo, come vedremo, può amministrarlo chiunque. Ecco, il sacramento dell'Eucaristia possono amministrarlo soltanto i veri sacerdoti, ma il sacerdote è vero soltanto che ha ricevuto l'ordine sacro, quindi un caos spaventoso. Ecco. Quindi la prima cosa che il Concilio di Trento, la prima cosa che fece fu il decreto sulla giustificazione, perché la dottrina sulla giustificazione era il cavallo di battaglia, insomma, di Lutero, è anche una sorta di cavallo di Troia. A partire da quello e da questa sua, diciamo così, visione distorta del processo di giustificazione, è stata completamente distrutta, diciamo così, l'antropologia e la soteriologia genuinamente cattoliche. Quindi il primo decreto, il decreto sulla giustificazione, il secondo, il decreto sui sacramenti, e poi a ruota libera, uno dopo l'altro, i singoli decreti sui singoli sette sacramenti, salvo il battesimo e la cresima, che sono stati trattati in un unico decreto. Quindi io vi leggerei rapidamente i 13 anatematismi del decreto sui sacramenti del Concilio di Trento, e poi facciamo qualche rapido commento per questa puntata, no? Allora, numero 1. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo nostro Signore, o che sono più o meno di sette, e cioè il battesimo, la confermazione, l'Eucaristia, la penitenza, l'estremunzione, l'ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento, sia anatema. Notate le formulazioni tipiche forti dei concili dogmatici, quindi che c'erano delle condanne esplicite, diciamo così, delle dottrine ad esso contrarie. Con anatematismo vuol dire che chi afferma una cosa di questo genere è scomunicato perché è fuori della comunione con la santa fede cattolica. Secondo, se qualcuno afferma che questi stessi sacramenti della nuova legge non differiscono da quelli della legge antica, se non perché sono diverse le cerimonie e riti esterni, sia anatema. Anche qui La risposta l'abbiamo già data la volta precedente, no? E con quello che aveva detto il Concilio di Firenze, non la volta precedente, diciamo all'inizio di questa puntata odierna. I sacramenti dell'Antica Alleanza erano segni e figure, i sacramenti della Nuova Alleanza sono veri sacramenti che contengono e danno la grazia. Se qualcuno, terzo anatematisma, afferma che questi sette sacramenti sono talmente uguali fra di loro che per nessun motivo uno è più degno dell'altro, sia anatema. 4. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono necessari alla salvezza, ma superflui, ecco, e che senza di essi o senza attenzione è il desiderio di essi, gli uomini con la sola fede ottengono da Dio la grazia della giustificazione, anche se alle singole persone non sono tutti necessari, sia anatema. Se qualcuno afferma che questi sacramenti sono stati istituiti solo per nutrire la fede, sia anatema. Queste erano tutte quante formulazioni care all'ambiente protestante. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che significano o che non la conferiscono a quelli che non frappongono ostacolo, quasi che essi siano solo segni esteriori della grazia o della giustizia già ricevuta mediante la fede o semplici note distintive della fede cristiana per cui gli uomini distinguono i fedeli dagli infedeli, altre proposizioni tipicamente luterane, sia anatema. Se qualcuno afferma che con questi sacramenti non sempre e non a tutti, per quanto sta in Dio, state attenti, è bellissima, viene data la grazia anche se sono ricevuti nel modo dovuto, ma che questa grazia viene data solo qualche volta e ad alcuni, sia anatema. Se qualcuno afferma, ancora, ottavo, che con i sacramenti della nuova legge la grazia non viene conferita, l'abbiamo visto nella prima puntata, ex opere operato, ma che è sufficiente la sola fede divina, la sola fede, scusate, nella divina promessa per conseguire la grazia, sia anatema. Poi, se qualcuno afferma che nei tre sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine non viene impresso nell'anima il carattere, cioè un segno spirituale ed indelebile, così che essi non possono essere ripetuti, sia anatema. Se qualcuno, 10, afferma che tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la parola di Dio e di amministrare tutti i sacramenti, questa è una cosa tipicamente luterana, sia anatema. Se qualcuno afferma che nei ministri, quando conferiscono i sacramenti, non si richiede all'intenzione almeno di fare quello che fa la Chiesa, sia anatema. 12. Se qualcuno afferma che il ministro, quando si trova in peccato mortale, ancorché compia tutto ciò che è essenziale a celebrare e conferire il sacramento, non celebra e non conferisce il sacramento, sia anatema. Se qualcuno afferma che i riti tramandati approvati dalla Chiesa Cattolica, soliti ad essere usati nell'amministrazione solenne dei sacramenti, possono essere disprezzati, ecco, o tralasciati a discrezione, senza peccato, da chi amministra il sacramento, o cambiati da qualsiasi pastore ecclesiastico con altri nuovi riti, sia anatema. Ecco. Scusate l'enfasi di questo ultimo anatematismo, perché questo è proprio, forse sarebbe bene cominciare il commento da questo. Questa è storia di ordinaria amministrazione oggi. Quante volte, cioè, dei ministri stravaganti, cambiano i riti, cambiano le formule, cambiano addirittura, si vede in giro online qualcuno che cambia le parole della consacrazione, comincia a inventarsi messe strane tra palloncini, canti, balli, scenografie varie. Ah, oh! Se qualcuno afferma che questi riti tramandati della Chiesa Cattolica possano essere tralasciati a discrezione o cambiati da qualsiasi pastore con altri nuovi strani riti, sia anatema, ha detto il Concilio di Trento, insomma, no? Quindi sarebbe bene che qualcuno se ne andasse a riguardare. Cioè, i libri liturgici e i sacri sacramenti, i sette sacramenti, non si toccano. Cioè, nell'amministrarli, i libri liturgici vanno seguiti bene, alla lettera, ecco. Sia che si usi il rituale Romanum, liberalizzato da Papa Benedetto XVI, quindi la forma classica, antica, dell'amministrazione dei sacramenti, sia che si usino libri liturgici nuovi, d'accordo? È la stessa cosa. Sempre la struttura del rito va rispettata e tu non ti puoi certamente inventare cose strane e stravaganti e tue, no? Ecco. Allora, vediamo un attimino di fare un po' una sintesi, raccogliendo un po', le varie suggestioni di questi 13, capitoletti, no? Cercando di riassumere qual è il concetto che vogliono in qualche modo esprimere. Allora, il primo, diciamo un po', afferma che i sacramenti della nuova alleanza sono sette, in questo senso riprendendo il Concilio di Firenze, né più né meno, e che sono stati istituiti da Cristo Signore. Tra l'altro afferma che sono veri e propri sacramenti, non semplici sacramentali. La differenza, ecco, è importantissima perché un sacramento ha una forza, non esiste nessun atto della Chiesa che equivalga in forza e in efficacia ciò che è un sacramento. Perché? Perché non sono azioni degli uomini i sacramenti, ma sono azioni di Cristo stesso che è efficace, come più avanti lo stesso Decreto sui sacramenti specifica, ex opere operato, cioè indipendentemente dalla fede e dalla rettitudine morale, sia del ministro che del destinatario, cioè il sacramento c'è comunque ed è comunque efficace. Ok? Mentre i sacramentali sono segni sacri compiuti in nome, non in persona di Cristo, la cui forza, ecco qui, dipende dalla fede di chi li amministra e di chi li riceve. I sacramentali, di cui ho parlato in altri cicli di catechesi, l'acqua esorcizzata, l'acqua santa, l'acqua benedetta, le candele, l'olio, il sale, l'incenso e tutto quello che volete di sacramentali, ce ne sono una quantità industriale infinita. Ci sono anche i sacramentali piovuti direttamente dal cielo. Per esempio c'è stata l'acqua di Lourdes, che è un sacramentale, l'acqua di Colle Valenza, che è un sacramentale, dico soltanto qualcuno, e ci sono delle apparizioni mariane controverse, discusse, io personalmente ci credo, che sono quelle di Manduria, dove la Madonna ha dato un olio benedetto. Sto facendo assolutamente delle catechesi su alcune pie pratiche in onore di San Giuseppe, e c'è un testo dove si viene a scoprire che ci sono dei sacramentali giuseppini, l'acqua di San Giuseppe, l'olio di San Giuseppe, le candele di San Giuseppe, lo scapolare di San Giuseppe, ecco, quindi lo scapolare è un sacramentale, la medaglia miracolosa è un sacramentale, gli oggetti benedetti sono, quindi la montagna ce ne sono di sacramentali, ma i sacramenti sono sette, d'accordo? E la differenza tra i sacramenti è che la loro forza è intrinseca, d'accordo? Perché sono azioni di Cristo, certamente senza alcun dubbio contengono la grazia, d'accordo? La cui efficacia dipende solo dalle disposizioni del destinatario, d'accordo? Nel senso che se li riceve indegnamente, li riceve, ecco, ma producono l'effetto contrario. Mentre un sacramentale, se non è ricevuto con fede, scivola completamente addosso, capite? Se uno non c'ha non c'ha la fede, in un sacramentale, una fede ferma che ci crede, non gli fa né caldo né freddo. Allora, volendo fare ancora un esempio, no? Prendiamo ancora un sacramento e un sacramentale. Se un sacerdote battezza un bambino, quel sacramento è sempre valido, anche se il sacerdote non ci crede a quello che fa, purché però compia il rito con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e usando le formule adatte. Vi faccio un altro esempio ancora, tra poco non tanto, insomma, ma dopo il tempo di Pasqua e la festa della Santissima Trinità, ci sarà la festa del Corpus Domini. La festa del Corpus Domini fu istituita perché c'era un sacerdote che non ci crede, che non ci credeva a quello che stava facendo. E appunto il Signore, per confermare questa fede che non c'era, gli fece trasformare in mano l'ostia in carne, sprizzando sangue, macchiando tovagliellini, capite? Se l'Eucaristia fosse dipesa dalla fede del sacerdote, è chiaro che questa cosa qui non sarebbe potuta avvenire perché quel pezzo di pane che c'aveva in mano il sacerdote sarebbe rimasto pezzo di pane, ma siccome lui celebrava la messa secondo il rito cattolico, Capite? Quindi quando uno va a messa può stare tranquillamente tranquillo, perché a meno che Dio non voglia, ma questo non, fino ad oggi non si è mai visto, non ci fosse uno stravolgimento tale del rito, ma questa è una cosa che è fantascienza, uno vuole, tale da snaturare, come dire, le formule sacramentali o la materia, uno può stare tranquillo, anche se chi celebra la messa è il più grande peccatore di questa terra. Però una benedizione di una casa è tanto più efficace e forte quanto il sacerdote ci crede a quello che sta facendo e il padrone di casa lo riceve con fede. Perché se un prete va a benedire la casa, come dire, dice, ma che ci stanno a fare dentro sta casa a bagnare i muri con l'acqua benedetta, ma tanto non serve a niente, se ci va con queste disposizioni effettivamente il suo gesto perde di forza e di vigore. È così, è la struttura dei sacramentali. Ora, il terzo canone afferma che i sacramenti, pur nella sostanziale uguaglianza di essi, tutti sono veri sacramenti, non hanno tutti la stessa dignità, perché come vedremo ce n'è uno, che è l'Eucaristia, in cui non c'è soltanto la grazia, questo è il grande mistero, il mysterium fidei, ma c'è l'autore della grazia, cioè Gesù Cristo nostro Signore in persona. Quindi questo sacramento chiaramente si trova su una sfera completamente superiore rispetto a tutti gli altri sette. D'accordo? Perché è l'unico che non contiene soltanto una grazia, ripeto, ma l'autore stesso della grazia, cioè Gesù Cristo nostro Signore in persona. Il canone quarto afferma che i sacramenti sono necessari, non superflui, e che senza di essi, attenzione, o almeno il desiderio di essi, non si può raggiungere la giustificazione, cioè la salvezza. Quindi, se tu non vieni battezzato realmente, per esempio, o almeno nel desiderio, desiderio che può essere esplicito o implicito, il desiderio esplicito è quando tu, per esempio, hai chiesto il battesimo e ancora non l'hai ricevuto. Il desiderio implicito, insegna la Chiesa nella Lumen Gentium, è quello di chi, pur non appartenendo formalmente alla Chiesa e pur non essendo consapevole della necessità della Chiesa e del Vangelo per la salvezza, tuttavia si sforza di compiere con la buona volontà le opere buone che gli detta la propria coscienza. Ecco, questo è considerato da Dio come una sorta di battesimo di desiderio, perché quel bene che la persona fa e a cui tende lo collega in qualche modo direttamente al sommo bene che la Chiesa Cattolica ha e nella quale si entra attraverso il sacramento del battesimo che riveste della grazia guadagnata da Cristo. Però questa è la tematica, che dico tante volte, ho parlato anche la volta scorsa, per esempio del battesimo dei bambini non nati. Degli aborti, volontari o spontanei. L'anima contrae la macchia originale quando viene creata e infusa nel concepito, e cioè subito. Se il bambino non viene alla luce, che è impossibile battezzarlo, all'assenza del sacramento del battesimo, che chiaramente preclude le porte della salvezza eterna a quella povera anima, chiaramente. Questa è una certezza di fede, fondata anche su questa affermazione, perché senza sacramenti, ripeto, o senza desiderio di essi, non si accede alla giustificazione, non ci stanno santi. Allora, basta una cosa molto semplice, come non ci vuole niente prendere un bambino e portarlo a un prete perché lo battezzi appena nato, perché serve che prendi la macchina, ti trovi un padrino e arrivi alla prima parrocchia disponibile, basta, non serve, non fa tutta questa gran fatica, non ci vuole niente. A battezzare di desiderio un bambino, perché basta fare una messa, io l'ho sempre raccomandato, con l'intenzione che non serve neanche che il sacerdote la sappia, perché la salpa è eterna. Tu vai da un prete e dici: senti, mi serve una messa secondo le mie intenzioni, fine del discorso, e tu l'intenzione con cui fai celebrare quella messa, e se puoi partecipi o ti comunichi, ma basta che la messa sia celebrata, non fa niente il resto, è che quella creatura riceva gli effetti di quel sacramento del battesimo che non ha potuto ricevere a causa della morte accidentale o peggio ancora quando è colpevole dipendente d'aborto volontario e che tu, in quanto genitore, che avresti avuto la potestà di portarlo alla fonte battesimale, gli vuoi dare come regalo, riconoscendo, sotto questo punto di vista, questa verità di fede, che se non entra in contatto con la grazia che Gesù Cristo ci ha ottenuto e per la quale è morto in croce per noi, quello in paradiso non ci va, che va a messa tutti i giorni, era chiaramente detto nella messa di ieri. Se uno non rinasce da acqua e da Spirito Santo, non può vedere il regno dei cieli, non può entrare nel regno dei cieli. Sono parole di Gesù. Le parole di Gesù, io non mi stancherò mai abbastanza, vanno prese sul serio. E non gli si può fare la glossa o, dicevano i giuristi di un tempo, l'interpolazione. Non si può. Se quello Gesù dice, ma Gesù lo saprà quando apre la bocca quello che dice, oppure no, o ne sai più tu. Né le parole di Gesù possono essere sottoposte al giudizio del nostro cosiddetto umano buonsenso, eh? Ecco, perché quando una cosa a me sembra strana, non la posso giudicare. Devo fare semplicemente mea culpa e devo umiliare l'accortezza del mio cervelletto limitato, umano, che a certe cose non ci arriva e che non le capisce. Ma mica io posso mettere a giudicare Domini Dio fra i figlioli miei cari. Oggi, quindi, a voglia prediche, io in giro ci sono tendenze ecclesiali, dice, ah, troppe messe, diminuiamo le messe, facciamo le celebrazioni della parola. Celebrazioni della parola, dove ci metti, se ci metti a presiedere un diacono, un ministro straordinario, la gente poi non capisce niente, e poi a un certo punto distribuisce la comunione e tanto è uguale, se non c'è il prete che dice la messa non fa niente, se non c'è il prete che dice la messa non fa niente, ma una messa detta dall'ultimo poveretto, di povero prete, povero diavolo, che si trova nel paesino più sperduto di chissà quale diocesi dispersa del pianeta Terra, ma tu puoi fare 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di celebrazione della parola con la comunione data, non fanno manco un milionesimo di messa. Io posso dire, sono 9 anni tra poco che sto in questa parrocchia da solo, affidata alle mie cure. Io non ho lasciato un solo giorno i miei parrocchiani senza la messa. A parte il fatto che io non ho passato un giorno della mia vita senza celebrarla, ma quando sono dovuto andare fuori, per ragioni ovviamente di necessità legate al mio ministero, per fare una conferenza, per fare una catechesi, per fare un pellegrinaggio, per fare un campo scuola con i ragazzi o altre cose, ho sempre trovato qualcuno che mi sostituisse e la messa non è mai mancata. Che gli altri l'apprezzi, che i parrocchiani l'apprezzino o non l'apprezzino, a me non interessa assolutamente nulla, d'accordo? Ma qui la messa ci deve stare per questa gente qua. Guai se non ci fosse. Io vi confesso, il fratello di mia sorella, il marito di mia sorella è diacono permanente, mio cognato è diacono. Per cui per me sarebbe facilissimo muovermi, faccio una telefonata. Dico, mi vieni qua, provate a chiamarlo, contattatelo, si sarà pure offeso, e chiedetegli se l'ho mai chiamato qui nella mia parrocchia. Non l'ho mai chiamato, ma non perché non gli voglio bene o perché non ho stima di lui, d'accordo? Ma perché ritengo errata questa utilizzazione del diaconato come sorta di sostituzione minoritaria del sacerdote. Il diacono ha un compito suo proprio, ma io non posso, come dire, pensare che la celebrazione della parola presieduta dal diacono sia fungibile con la messa. Questa è una posizione chiaramente luterana, perché i luterani dicevano che la salvezza non ti viene dai sacramenti, ti viene dalla parola, dalla parola, dalla parola, dalle prediche, dalle prediche e dalle prediche. A me c'è un sacco di gente che mi passa la giornata a dirmi: Don Leonardo, ho sentito le tue catechesi, per carità, se vi edificano queste catechesi, ascoltatele pure, ma le mie catechesi, tra virgolette, funzionano solo se le persone, ascoltate le catechesi, vanno a confessare e cominciano ad andare a messa tutte le domeniche almeno, o tutti i giorni, meglio ancora, a pregare, a dire il rosario. Vedo molte volte questo succede, quindi mi posso accontentare, ma una predica fine a se stessa, la predica fine a se stessa, tutta la predicazione della Chiesa, che è importante, cerchiamo di capire, e che deve essere, ma porta necessariamente alla celebrazione dei sacramenti, come diceva il buon San Giovanni Battista, lui deve crescere, io diminuire, cioè io sono un tramite che ti deve portare a Gesù Cristo, la grazia di Gesù Cristo non te la do io, te la danno i sacramenti. Certo, io sono un prete, quindi se vuoi venire a confessare, io ho il potere di darti anche la grazia di Cristo in quanto prete, d'accordo? E se vieni a messa, cioè, la celebro, quindi posso pure assomiglia tutto, insomma, no? Per dire, però. È distinto, non sono le chiacchiere di Don Leonardo che ti danno la salvezza, di Don Leonardo, di Don Francesco o di Don Nicolino o di Don Pasquale. Queste possono scuotere la tua coscienza e il tuo libero arbitrio, se il Signore le benedice, perché altrimenti non scuotono proprio nessuno, e portarti verso i sacramenti. Capite? Ma i sacramenti sono la nostra vita. Capite? Perché i sacramenti sono azioni di Cristo. Sto, quindi tutta l'azione della Chiesa non serve ad altro che a insegnare ai fedeli, io mi sto sgolando in tutti i modi, questo cosa si fa, a celebrare bene, a vivere bene i sacramenti. Poi ve lo dirò per ogni singolo sacramento, ve lo dico tutte cose, come dicono a Napoli, queste cose qui. Ecco, voi sarete sani, avrete una grande vita. Se vivrete bene tutti i sacramenti che vi riguardano, vedete che a un certo punto il Concilio di Trento dice sempre questo stesso numero: non sono tutti necessari alle singole persone. Io sono diventato prete, il sacramento del matrimonio, verso cui ho grandissima stima e che, come dire, spalleggio e promuovo con tutte le mie forze, non mi riguarda. Non ho nessun rimpianto per questo, perché sono felicissimo della mia condizione. Quindi, pur stimandone la bellezza, non avrò mai necessità di contrarre questo sacramento, non mi passa manco per l'anticamera del cervello, d'accordo? Così come una persona felicemente sposata, stia felicemente sposata, non c'è nessun bisogno che diventino preti le persone sposate, d'accordo? A fare assopigliatutto in un altro senso, d'accordo? Quindi vivi e santificati nel matrimonio, lascia fare i preti ai preti, no? Ecco, d'accordo? Una persona che muore martire, di morte improvvisa, purtroppo non beneficerà dei sacramenti dell'estrema unzione, ma se muore martire, altro che l'estrema unzione, no? L'estrema unzione gli viene data nel sangue che versa, insomma, quindi è un pochino più grande. Scusatemi se mi sono un attimo soffermato, ma qui oggi, a mio parere, questa percezione della priorità dei sacramenti è smarrita, perché i sacramenti o si disprezzano, oppure quando si frequentano male. Confessioni mal fatte, mal preparate, mal gestite. Comunioni sacrilege a tutto spiano hanno parlato infinite volte, battesimi date a gente che c'è ormai 50, 40 anni, quando era pia moglie, d'accordo? Sto esagerando chiaramente, cresime che diventano il sacramento dell'addio, d'accordo? Faccio la cresima e poi sparisco dalla circolazione, matrimoni, guardate, che non si possono guardare, porno matrimoni. Dopo convivenze, senza nessun gesto di pentimento, a volte dopo matrimonio al comune, o quantomeno dopo aver fatto di tutto e di più con Tizio, Caio e Sempronio prima del matrimonio, quindi pensiamo ai grandi sacramenti del matrimonio che vengono celebrati, estreme unzioni quasi nessuna, e quasi tutte date a persone incoscienti, quindi state un attimo a capire, noi abbiamo una miniera d'oro, un arsenale, da altro che bombe atomiche, d'accordo, e andiamo a fare la guerra con le baionette del 1700, ammesso che ce l'abbiamo, quando ci avremo a disposizione un arsenale atomico. Stiamo ridotti così oggi. Io non credo di esagerare, perché parlo anche a ragion veduta. Cioè, io ho detto tante volte, ho il polso della situazione, sia perché conosco gli ambienti di chiesa e come la pensano molte persone di chiesa, sia perché sono parroco, quindi vedo. Cioè, la stragrande maggioranza di funerali che io ho celebrato, gente che io ho saputo che era morta quando mi hanno chiamato per benedire la salma, sapeste quante volte ho detto, dico, ma perché non mi avete chiamato prima? Ma sai perché, sai, perché dopo si impressionava, dopo qua, a destra, a sinistra. Ho persone che sono state malate per anni, in territorio della parrocchia, io personalmente vado a dare la comunione ai malati, qui non ci sono ministri straordinari qui che fanno questo, ci vado io, ci vado. Anni che sono stati qui, ti avessero chiamato una volta, io vado, questa è una priorità assoluta, tutto possono dire di me, meno che non vado a fare queste cose, quindi se uno mi telefona e mi dice vieni a confessare e portami la comunione, io parto e vado, d'accordo? Ecco, è una di quelle cose che cerco di filtrare, chi ti viene a citofonare alle 2 del pomeriggio perché vuole il certificato di battesimo, perché insomma altrimenti vado al manicomio, ma sacramenti non si toccano, o estreme unzioni, e visite ai malati, confessioni, ecco, non si toccano. Però questo è quello che io riscontro. Allora, il quinto, vediamo gli altri anatematismi. Quindi, i sacramenti hanno un'altra dignità, perché sono la salvezza comunicata da Gesù Cristo. Tutte le altre forme di ricerca di Dio, tutte le buone opere o qualunque altra cosa si possa fare, anche se, come dicevo, sono benedette dall'Altissimo, ma non possono mai e in nessun modo surrogare il bisogno di essere salvati dall'unico Signore, di essere raggiunti e toccati realmente dalla salvezza da Lui operata attraverso l'unico canale che la veicola, i sacramenti. L'unico canale ordinario. Allora, questi peraltro non sono, come dicevano i luterani e come dice un altro punto degli anatematismi, non sono semplicemente dei segni della fede o dei simboli o delle realtà che servono a nutrire la fede, ma sono strumenti efficaci, scusate, di comunicazione della grazia, perché significano, ecco, per ottenere la quale ordinariamente sono indispensabili. Certo, dicevano già i padri della Chiesa, Dio che ha preordinato, diciamo così, e disposto la comunicazione della grazia attraverso i sacramenti, non si è però legato ai sacramenti, quindi se vuole può trovare il modo di far arrivare la grazia con altri canali, quando però, attenzione, il soggetto sia nell'impossibilità materiale o morale di ricevere il sacramento, pur volendo riceverlo. Questo è un altro discorso. D'accordo? Ecco perché bisogna essere battezzati. Bisogna confessarsi per essere perdonati. Non mi posso confessare direttamente da parere. Andare a messa per entrare in contatto con la passione di Gesù. Non basta di mettere a pregare davanti al crocifisso in casa. Comunicarsi per avere Dio nel cuore. Sposarsi in chiesa per essere realmente una sola carne e per poter compiere lecitamente ogni forma lecita di attività sessuale, che è sempre peccato grave fuori del matrimonio, in tutte le sue manifestazioni, nessuna esclusa. Questo dovrebbe essere ampiamente chiaro dalle catechesi sui 10 comandamenti. L'efficacia dei sacramenti, canone 7, è sempre per tutti garantita. Ripeto che l'unica condizione è che essi siano amministrati dal ministro competente, con la formula esatta, la materia giusta. Non posso battezzare un bambino col whisky, ci vuole l'acqua naturale, e se il destinatario abbia le debite disposizioni, che sono, per esempio, lo stare in grazia di Dio per ricevere i cosiddetti i 5 sacramenti dei vivi, che sono l'Eucaristia, la Cresima, l'ordine del matrimonio e l'unzione. Il pentimento reale e la confessione integra per ricevere il sacramento della penitenza. E questa efficacia, certo, oggettiva dei sacramenti, come abbiamo già più volte accennato, che con espressione tecnica si designa con efficacia ex opere operato, cioè per il fatto stesso che l'azione sia posta in essere, e garantisce, ecco, l'efficacia assolutamente santificante di essi. Il nono canone che abbiamo letto afferma che in 3 sacramenti, battesimo, cresima e ordine sacro, si imprime nell'anima il sacro carattere. Il grande catechismo di San Pio. Il sacro carattere che cos'è? È un segno, diciamo, è una sorta di mistico tatuaggio, io lo chiamo così, che si imprime nell'anima conferendole una certa caratteristica che non potrà mai essere cancellata. Per questo non esiste lo sbattezzarsi o lo spretarsi o lo scresimarsi, è impossibile. Il battesimo imprime il carattere di cristiano, cioè nella nostra anima c'è un segno indelebile, un distintivo, un tatuaggio. Tu sei un marchio di fuoco, fuoco dello Spirito Santo, non lo può togliere nessuno quello lì. Con la cresima, pensate un po', con la cresima si viene marchiati come soldati di Cristo, cioè l'armatura spirituale addosso a noi. Pensa un po' che i grandi soldati, quelli che appena celebrato il sacramento della Cresima, il giorno dopo fuggono in diserzione di massa, quasi tutti. E l'ordine sacro rende ministri di Gesù. Sono i tre sacramenti in cui viene usato il sacro crisma, l'olio più santo. Nel battesimo viene unta la parte superiore della testa, diciamo così, tra la testa e la fronte, quella è la zona. Nella cresima si unge la fronte e nell'ordine sacro vengono unte le mani, che vengono consacrate. Ecco perché c'è la pia tradizione del bacio delle mani ai sacerdoti e il giorno dell'ordinazione si baciano le palme delle mani. Nessuno vieta di farlo anche dopo l'ordinazione, ma è per esprimere con maggiore, come dire, evidenza di fede. Non è quello un gesto di onore reso al sacerdote in quanto tale, d'accordo? In quanto persona. Ma è un atto di culto reso a Cristo e che esprime anche la fede che io ho nel sacramento dell'ordine, nel carattere sacerdotale. Ecco. Quindi l'ordine sacro rende ministri di Gesù nel grado del diaconato, sacerdoti di Gesù nel presbiterato, sommi sacerdoti nell'episcopato. Oh, il decimo canone dice che non tutti li possono amministrare questi sacramenti, come vorrebbero le comunità luterane, sono tutti predicatori e tutti ministri dei sacramenti. No, ecco, ma ha la potestà di amministrare i sacramenti chi riceve l'ordine sacro nel grado del presbiterato, gli altri no. Ecco, vedremo che ci sono rarissime eccezioni per alcuni sacramenti, uno tra l'altro è il battesimo, ecco. Ma il resto ci vuole il sacerdote perché possano essere amministrati. Di ministri della parola, tra l'altro, si diventa col diaconato. Il diacono, ecco, non dovrebbe assumere surrogati del sacerdote. Il diacono è ministro della parola e della carità. Quindi il diacono dovrebbe svolgere, se fosse veramente diacono doc nella comunità cristiana, le cose per cui ha dato la vita. Cosa ha fatto Santo Stefano? Santo Stefano era un grandissimo predicatore. Per essere predicatori basta essere diaconi, non serve essere preti. Non vi scandalizzate, al diacono viene consegnato il Vangelo, il diaconato che oggi è diventata purtroppo, per come lo vedo in giro, anche questo sacramento un po' non saprei che, è un bellissimo sacramento, ma il diacono è il ministro della parola, deve predicare e della carità, cioè deve occuparsi del servizio dei poveri, ebbene, deve farlo lui, deve farlo, cioè le caritas parrocchiali non dovrebbero esistere, specialmente nelle diocesi che hanno tanti diaconi. Pensate, dalle parti mie ce ne stanno 30 circa di diaconi permanenti. Dovrebbero occuparsi tutte quante le carità, tutte quante le parrocchie e sgravare i parroci. Alcune parrocchie qui hanno delle caritas veramente spaventose, di questa mole di lavoro in più, perché si occupano di altro loro. Quindi la predicazione e il servizio della carità e basta. Non tutte le altre cose, oggi fanno quasi tutto meno che questo. Ecco. Va bene, di alcuni sacramenti si diventa ministri col presbiterato, sapete che il sacerdote può amministrare tutti i sacramenti meno cresima e ordine sacro, e di tutti i sacramenti, per questo che si chiamano sommi sacerdozi, con l'episcopato. Ancora, perché un sacramento sia valido, si richiede che nel ministro, almeno a livello interiore, ci sia solo una cosa, che non celebri il sacramento per scherzo, quindi, ma che abbia l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa, usando tra l'altro le rubriche, quindi le modalità e le cerimonie prescritte dai riti della Chiesa Cattolica. Tutto qui. Ecco, ma questo poco, come dichiara l'undicesimo canone, deve essere presente per la validità del sacramento. Ecco, fermo restando quanto appena detto, per il fatto che i sacramenti operano ex opere operato, il canone 12, l'ultimo, specifica che l'eventuale condizione di peccato mortale del celebrante non influisce sulla validità del sacramento. Diceva Sant'Agostino, se Giuda battezza, è sempre Cristo che battezza. Se Paolo battezza, è Cristo che battezza. Se Pietro battezza, è Cristo che battezza. Dell'ultimo canone abbiamo già parlato, concludendo, abbiamo cominciato a parlarne, no? Ho già detto, insomma, che i riti della Chiesa Cattolica e le norme liturgiche non possono essere, ripeto, disprezzati, tralasciati a discrezione, senza peccato da chi amministra il sacramento, oppure cambiati da qualsiasi pastore ecclesiastico con altri nuovi riti. E questo purtroppo è un problema non indifferente a cui da qualche parte, a quanto sembra dirsi e a quanto mi arriva in varie segnalazioni, sembra succedere. Bene, con questo possiamo chiudere il capitolo sui sette sacramenti, quindi diciamo sul loro numero, sulla loro funzione e su ciò che riguarda la loro straordinaria efficacia. Dalla prossima volta riprenderemo il discorso sul sacramento del battesimo in forma più organica e sistematica, quindi cominciando a vedere bene la sua struttura, quindi non solo i primi limitati interventi nel primo millennio e nell'inizio del secondo da parte di qualche pontefice motivato da motivazioni contingenti, ma proprio ciò che il Concilio di Firenze e il Concilio di Trento insegnano su questo primo dei sette sacramenti. Io do la mia benedizione a tutti, l'appuntamento si vede la prossima settimana. Ave Maria.